c'è la notte che t'aiuta e dormi e lasciami giocare a quando non sarai più qui, a quando un giorno un nuovo amore ti riscalderà di più. La mia pelle che domani non si sa, sogna che il tuo compleanno tornerà tra appena un anno, che avrai volato e navigato e io chissà dove sarò, ma se c'è un posto nel tuo cuore non farò rumore, tienilo per me. Al tempo che cambia, cielo bambino, ai fuochi di ferro.